se l'Europa o l'Eurozona più precisamente andrà ad indebolirsi ancora di più fino addirittura al limite che speriamo non sia mai raggiunto della rottura, anche la Germania pagherebbe un prezzo molto alto. Per quanto riguarda il riferimento alla valutazione, alla sentenza della Corte Costituzionale sulla ammissibilità del European Stabilization Mechanism, credo che il problema sarà risolto con un parere favorevole a questo meccanismo, ma ciò nonostante io ritengo che quel meccanismo non sia adatto a risolvere la crisi europea, perché è un meccanismo di salvataggio, non è un meccanismo di prevenzione e meno che mai è un meccanismo di unificazione, almeno parziale, del mercato finanziario dei titoli di Stato europei e per il rilancio della crescita. Quindi se l'Europa continua a muoversi nella logica della Croce Rossa, dei salvataggi, non credo che uscirà da questa crisi.